Europa 24. Ancora un buongiorno da Gigi Donelli. L'Europa, dunque, due le notizie. Oggi facciamo presto, diciamo, visto che i temi sono gli stessi che vengono trattati nelle nostre principali edizioni dei giornali radio. Direi di sentire subito la voce della responsabile della politica estera, Federica Mogherini. All today is the result of a very hard work of un gran lavoro e un gran risultato. Federica Mogherini, la responsabilità, appunto, di responsabile per la politica estera comune europea al centro del gruppo dei 5 più 1, dice un impegno condiviso per la pace, per rendere il nostro mondo più sicuro. Una giornata storica che pone le condizioni per rafforzare la fiducia, che conferma, secondo la Mogherini, che l'Iran non ha intenzione di sviluppare alcuna arma nucleare. Nessuno, ha concluso, ha mai pensato che sarebbe stato facile, ma tutti gli sforzi compiuti ci hanno aiutato a superare i momenti più difficili. Accordo fatto, dunque, naturalmente molte le riflessioni, le implicazioni. Nelle prossime puntate parleremo sicuramente anche delle implicazioni in termini di eliminazione di blocchi commerciali e quindi possibilità anche molto interessanti per molti paesi, tra cui l'Italia, di riprendere, diciamo, un ciclo normale degli affari, non solo economici ma anche culturali, con l'Iran. Ma tant'è per oggi. E intanto sul fronte invece della Grecia, come sapete, avete sentito appunto da Simone Spezia di Padoan, che dice nessun costo in vista per l'Italia. Di certo queste sono le ore decisive sul fronte interno. Si tratta dunque a Tsipras di affermare la posizione dell'accordo raggiunto a Bruxelles dopo la lunga maratona. Una situazione che, come dire, non si annuncia facile. Basta leggere l'ultima dichiarazione del suo ex ministro delle finanze Yanis Varoufakis. Dice: una resa della Grecia che accetta di diventare vassallo dell'Eurogruppo, una totale umiliazione del paese, un completo annullamento della sovranità nazionale. Poi non dice come voterà, ma il sospetto dalle sue parole è che non sarà sicuramente un voto positivo da parte sua. Si vedrà nelle prossime ore, vi terremo aggiornati. È tutto per Europa 24. Un saluto. Europa 24. Collaborazione con Euronet Plus.